piano. Di Enrico Ruggeri. Certe storie sarebbe meglio non doverle raccontare, sarebbe più facile dimenticare, non addentrarsi nei meandri dell'ingiustizia che spesso il genere umano subisce. Di questa storia adesso negli ultimi tempi si comincia a parlare, anzi ovviamente poi è diventata teatro di un dibattito politico tardivo che peraltro non ci interessa. Insomma, il rischio è strumentalizzarle e ferire ulteriormente le vittime. Insomma, noi non amiamo le comunità, non vogliamo la strada più facile, vogliamo cercare per quello che possiamo di rendere giustizia, almeno nel pensiero, a chi giustizia non ha mai avuto. E noi oggi vogliamo essere quelli che prendono le difese di qualcuno che è rimasto per troppo tempo nell'oblio, è stata una vittima dimenticata di una ferocia assurda, di carnefici, senza pietà e senza soprattutto motivazione, perché noi stiamo per raccontare la storia di una bambina di 13 anni, una bambina di Savona, Giuseppina Gersi, che il 30 aprile del 45, durante quei giorni di follia, la follia dell'immediato post-fascismo, viene arrestata dai partigiani. Ecco, la parola partigiani ovviamente può essere interpretata in mille modi, nel senso che ovviamente non esiste, come dire, l'albo dei partigiani. Stiamo parlando di persone che all'epoca dei fatti si sono qualificate come tali. L'accusa di questi partigiani, o vogliamo dire sedicenti tali, per non indispettire qualcuno, se volete, diciamolo bene, l'accusa è di essere una spia fascista, e Giuseppina trova la morte dopo giorni di sofferenze atroci, di stupri, di vigliaccherie di ogni genere. Viene uccisa e quando viene uccisa la cosa suona liberatoria, purtroppo viene sottratta alle sue sofferenze da un colpo di pistola alla nuca. Iniziamo il nostro racconto con una valutazione di quella che è stata la violenza diffusa e massiccia in quegli anni, perché Giuseppina Gersi non è certo l'unica vittima di quella follia. Ascoltate bene cosa riporta lo storico russo Viktor Zaslavsky, che ha scritto un libro, Togliatti e Stalin, il PC e la politica estera, negli archivi di Mosca. L'allora capo del PCI, Palmiro Togliatti, scrisse un rapporto all'ambasciatore sovietico in Italia, Mikhail Kostiliev, sul numero di persone che in quel periodo venivano uccise senza un processo. Successivamente, il 31 maggio 1945, l'ambasciatore si incontrò con il segretario del PCI e inviò a Mosca un rapporto sul loro colloquio. Togliatti aveva valutato in circa 50.000 le persone uccise con esecuzione sommaria. In quel momento storico, con l'uccisione del duce, la fine del regime, assassinare dei fascisti non è considerato un reato. Peraltro, questo slogan l'ho sentito anch'io negli anni 70. E magari si tratta di persone che non hanno avuto niente a che fare direttamente con il fascismo. E questo è il caso della nostra protagonista, Giuseppina Gersi, che a 13 anni non poteva certo aver fatto qualcosa che meritasse una condanna a morte estemporanea. Prima di iniziare a raccontare questa storia terribile, va fatta una precisazione, che tutte le informazioni sulla vicenda di Giuseppina Gersi arrivano da fonti minime, raccolte con grandissima difficoltà. Tenete conto che la pagina di Wikipedia di Giuseppina Gersi è stata cancellata. Provate ad andare su internet a cercare qualcosa su di lei, fino a poco tempo fa si trovava veramente poco, adesso qualcosa comincia a uscire, sicuramente ci sono dei video realizzati dall'associazione savonese Ragazzi del Manfrei, chiamata così per onorare ciò che è avvenuto nel Monte Manfrei, l'assassinio di oltre 200 soldati della divisione San Marco, avvenuto il 4 e il 5 maggio del 45 a opera dei partigiani savonesi, anche se poi qualcuno nega che siano stati i partigiani, ma saranno morti per altre cause. Questa associazione viene fondata negli anni 50 da Stelvio Murialdo, il primo a trovare il cadavere martoriato della povera Giuseppina, e quello che ha fatto di tutto negli anni per far sì che questa uccisione, come quella di tanti altri martiri, non venisse dimenticata. E per anni solo questa piccola associazione privata ha cercato di scavare nella storia. Ripeto, poi oggi all'interno di un dibattito politico che forse non rende neanche giustizia a Giuseppina, oggi qualcuno ne sta parlando, ma per decenni solo questa associazione si è battuta contro il classico muro di gomma. Giuseppina Gersi nasce a Savona nel 1931, i genitori Giuseppe Gersi e Laura Mongolli sono dei commercianti ortofrutticoli, delle persone semplici che non si interessano di politica, non sono neanche iscritti al partito fascista, cosa anche difficile in quei tempi nei quali ovviamente essere iscritti al partito ti poteva agevolare. La famiglia abita in via Tallone, che oggi è stata ribattezzata, si chiama via Donizetti. Voi ricordatevi però via Tallone perché è un dato importante in quella vicenda. Giuseppina è una bambina tranquilla, cresce serena in una famiglia che la ama, i genitori sono gente che si alza presto al mattino, lei va a scuola da sola, ci va con passione e grande profitto. All'epoca dei fatti che stiamo raccontando, Pinuccia, perché Giuseppina la chiamano così in famiglia, ha 13 anni, frequenta l'istituto magistrale Maria Giuseppa Rossello nel quartiere La Villetta di Savona. Nei registri scolastici è definita una studentessa accorta e diligente, le sue insegnanti la giudicano una delle migliori della scuola. Così, quando viene indetto un concorso nazionale che prevede la scrittura di un tema, la fanno partecipare. Quella che potrebbe sembrare una fortuna, un riconoscimento di merito per una brava studentessa, è destinata a trasformarsi per lei nell'orrore più assurdo. Eh sì, perché il tema di Giuseppina Gersi viene ritenuto bello, ha dello slancio, riceve addirittura una menzione speciale dal segretario particolare del Duce. Nel sito dell'associazione Ragazzi del Manfrei si può vedere la foto del documento. L'ispettrice scolastica regionale della Liguria, Maria Moro, scrive alla camerata Pinuccia Gersi, è perché così chiamavano le persone in quegli anni, e le dice: acclusa, ti rimetto la lettera pervenuta dal segretario particolare del Duce, data 13 febbraio 45. La lettera acclusa invece del 18 gennaio ed è indirizzata alla giovane italiana Pinuccia Gersi, gruppo femminile fascista repubblicano Savona. Recita così: il Duce ha preso atto dei sentimenti espressi nella vostra lettera trasmessa dalla reggente di codesto gruppo, firmato il segretario particolare di Benito Mussolini. Tutto qui. Frase di circostanza, probabilmente una risposta standard che veniva inviata d'ufficio dalla segreteria di Mussolini a tutti quelli che facevano pervenire qualche missiva, non so, i temi degli studenti, le lettere delle ammiratrici. Si dice che il Duce ricevesse migliaia di lettere al mese e c'era naturalmente chi era incaricato di rispondere. Lo fanno anche i calciatori, i cantanti, io no, ma molti lo fanno. Così anche Pinuccia riceve questo riconoscimento, un plauso al tema, alla lettera che ha scritto. Insomma, questo la rende ovviamente una bambina felice, ma niente di più. Lei è una bambina, non stiamo parlando di uno che si occupa di politica. E non si occupa di politica neanche quando gioca con alcuni soldati della San Marco, la divisione fanteria di Marina, che si trovano di stanza proprio lì a Savona, abitano nella sua stessa palazzina. Per lei non sono soldati fascisti, sono dei ragazzi un po' più grandi di lei, e lei ci gioca, le stanno simpatici. Ma questa frequentazione e sia la lettera del segretario particolare del Duce saranno per lei causa di tutta la tragedia che stiamo per raccontare, la tragedia che la condurrà a una fine irragionevole. E ora ci dobbiamo addentrare nei fatti, nei terribili fatti che prendono l'avvio dal 25 aprile del 45, giorno ricordato come la liberazione. Mussolini, che viene giustiziato tre giorni dopo, il 28 aprile, e il 25 aprile è una bella data per molti, ma non per tutti. Di certo non è una bella data per la famiglia Gersi. E tutto quello che vi racconteremo adesso è scritto nero su bianco, vergato a mano in sei pagine da Giuseppe Gersi, il papà di Giuseppina. È il 29 aprile del 1949, quattro anni dopo, lui, non essendo riuscito a ottenere nessun tipo di giustizia, scrive un esposto al procuratore della Repubblica di Savona. Questo documento è un documento che si legge veramente a fatica, è conservato nell'archivio di Stato di Savona, l'associazione Ragazzi del Manfrei è riuscita a ottenerne una copia, però nel momento in cui io vi sto parlando raccomando, se voi andate sul sito e provate a cliccare sul link che vi rimanda a questo documento, compare una pagina bianca con la scritta impossibile raggiungere il sito perché è stato oscurato. E vi dico anche un'altra cosa: da questo momento io racconterò la testimonianza di un padre, quindi se volete non vi sto dando delle prove. Aggiungerei però che questa testimonianza, questo padre, nessuno lo ha querelato per diffamazione e diciamo che come dire, gli elementi ci sarebbero tutti, semplicemente si è fatto finta di non ascoltare quello che questo padre aveva da dire. La mattina del 26 aprile io e mia moglie ci recammo al lavoro alle 6, al nostro ingrosso di frutta e verdure, accompagnati da un vetturino, Meriggi, che abitava accanto a casa nostra. Arrivati a San Michele fummo fermati da due partigiani armati di mitra. Uno dei partigiani, De Benedetti Giuliano, volle che fossimo tradotti al campo di prigionia di Legino sotto scorta armata. Venni disarmato del coltello da lavoro che abitualmente mi portavo dietro. Arrivati al campo di Legino, luogo di morte di tanti poveretti, un certo Piovano, abitante a Savona, in via Valletta San Michele, attualmente operaio delle FS, ci sequestrò le chiavi di casa e del magazzino. Dopo circa mezz'ora fu tradotta al campo anche mia cognata, coabitante con la mia famiglia. In questo modo la casa e il magazzino furono depredati di tutto senza testimoni. Per portare via le nostre cose furono usati camion e carretti e da casa sparirono oro, argenti e denari. Quindi per il momento i due coniugi e la cognata, senza alcun motivo, senza nessuna imputazione, vengono arrestati e le loro cose vengono rubate. È un abuso terribile perpetrato ai danni di cittadini onesti, di lavoratori senza alcuna colpa. Come avete sentito, Giuseppe Gersi fa nomi e cognomi, addirittura indica l'abitazione e il lavoro attuale che svolge in quel momento il 49 il tizio responsabile delle razzie in casa sua, questo certo Piovano. Purtroppo il peggio però deve ancora arrivare, quello che dovranno passare i Gersi, papà, mamma, cognata, è l'orrore puro che coinvolgerà nella maniera più tragica la loro figlioletta Pinuccia, la piccola Giuseppina Gersi, di appena 13 anni, colpevole di avere scritto un bel tema che era piaciuto alla segreteria del Duce. E poi si dirà anche che alcune volte era stata vista girare in camicia nera, a parte che mezza Italia girava in camicia nera, ma poi stiamo parlando di una bambina di 13 anni, ve lo dico per l'ennesima volta. Il falco e il gabbiano. La nostra protagonista di oggi è la piccola Giuseppina Gersi, che nell'aprile del 45, a soltanto 13 anni, viene arrestata assieme ai genitori dai partigiani savonesi che l'accusano di collaborazionismo con i fascisti. La piccola ha la sola colpa di aver partecipato a un concorso scolastico nel quale ha scritto un tema che si era guadagnato via lettera i complimenti del segretario particolare di Mussolini. Ripeto ancora una volta, prima che qualcuno si indigni, che io continuo a usare la parola partigiani perché come tali si qualificavano all'epoca dei fatti. Poi ripeto anche che ovviamente non c'era un albo del perfetto partigiano militante e quindi se volete posso sostituire la parola partigiani con la parola sedicenti partigiani. A quel punto, nei giorni infernali del primo post fascismo, in cui ci sono orde di sciacalli che stanno spadroneggiando, decidendo chi merita di vivere e chi no, anche lei incappa nella follia che sta dilagando, viene arrestata, malmenata, seviziata e stuprata per giorni, infine giustiziata con la assurda accusa di essere una spia fascista. 13 anni. La sua vicenda, come quella di tante altre vittime della violenza che si traveste da giustizia, rimane sconosciuta per anni, nonostante la denuncia del padre e della madre sopravvissuti alla ferocia degli aguzzini. E ancora oggi è quasi impossibile trovare informazioni e documenti relativi a questo assassinio efferato, aggravato peraltro dalla tenera età di questa martire. Siamo alla mattina del 27 aprile 1945. I coniugi Gersi e la cognata si trovano dal giorno prima nel campo di prigionia di Legino. Sono stati arrestati dai partigiani senza nessuna accusa precisa, come accadeva. Sono state sequestrate a questa famiglia le chiavi di casa e del magazzino di frutta e verdura. Poi scopriranno che tutti i loro averi sono stati rubati, portati via addirittura con un camion, un furto sistematico e ben organizzato. E adesso loro sono lì nel famigerato campo di Legino, dove troveranno la morte tanti innocenti. I partigiani si accaniscono sulla signora Laura, la picchiano, la minacciano di morte, vogliono che la donna riveli loro dove si trova Pinuccia. Sì, perché la bambina non era in casa al momento dell'arresto dei genitori, era ospite di alcuni amici. Il resoconto del papà di Giuseppina prosegue così. Il 27 aprile, verso le 10 del mattino, i partigiani minacciarono mia moglie di morte per sapere dove fosse la mia bambina, di appena 13 anni. Terrorizzati dalle percosse, dalle minacce, ma anche in certa misura tranquillizzati, perché ci dissero che volevano solo fare un normale controllo, andammo a prenderla in via Paolo Boselli da certi nostri amici. Un brutto ceffo, un tal Francesco Guerci, abitante a Zinola, operaio della Ilva, la prese e la portò anche lei al campo. Ora, forse i coniugi Gersi possono sembrarvi un po' ingenui, perché col senno di poi sarebbe stato meglio farsi uccidere piuttosto che rivelare dove si trovava la bambina. Loro sono del tutto ignari, hanno ancora fiducia nel loro prossimo, non pensano che qualcuno possa far loro del male, non sanno cosa sta succedendo in tutta Italia, non immaginano che tra poche ore Mussolini verrà fucilato e esposto a testa in giù a Piazzale Loreto. Insomma, sono naturalmente angosciati, ma pensano alla fine che la loro figlia è una bambina e quindi che non potrà succederle nulla di male. Ascoltate il racconto del padre. Nel pomeriggio iniziarono le nostre torture. Presero la bambina, le rasarono a zero i capelli, le cosparsero il capo di vernice rossa e poi ci giocarono a pallone. Giocarono a pallone col suo corpo, la ridussero in uno stato comatoso. Perdeva tanto sangue che non aveva più la forza di chiamare suo papà. Intanto in cinque mi tenevano fermo a guardare. Poi si sfogarono su mia moglie, malmenandola, percuotendola e facendole quello che lascio alla vostra immaginazione. Poi presero anche Pinuccia e lo fecero anche a lei. Intanto mi battevano con il calcio del moschetto sulla schiena e sulla testa. Una scena raccapricciante che non si può ascoltare senza inorridire, ma anche senza sentire il legittimo desiderio di vedere puniti i colpevoli di questo scempio. Giuseppe Gersi continua il suo tragico racconto nelle 6 interminabili pagine di denuncia. Dopo che i partigiani si sono accaniti su di lui, lo hanno picchiato selvaggiamente, lo hanno trattenuto mentre violentavano la moglie e la figlioletta, dopo essersi accaniti in parecchi su madre e figlia, i coniugi Gersi vengono portati in via Niella al comando partigiano, dove viene detto loro che a loro carico non è emerso nulla. Questo dopo essere state violentate due donne. Ma nonostante questo, vengono condotti al carcere di Sant'Agostino. Qui la signora Laura rimane 12 giorni, poi viene rilasciata e non sa nulla né del marito né tantomeno della figlia Pinuccia. Non sa dove andare perché le hanno tolto tutto: la casa, il negozio, la sua attività, i suoi beni e la famiglia. C'è di che impazzire. Laura Gersi va al comando partigiano di via Montenotte e lì le restituiscono le chiavi di casa. Appena entrata, però, un caprione del PC, un certo Francesco Peregallo, appare come dal nulla e le sigilla tutte le camere, tranne la cucina e una stanzetta. Cioè, praticamente le chiudono le stanze di casa sua. Questo Peregallo si scoprirà che abita in via Tallone. Ricordatevi, avevo detto di tenere a mente questo indirizzo. È un vicino di casa dei Gersi, è uno che li conosce bene, madre, padre, figlia, e mette i sigilli alla loro stessa casa proprio perché non si veda che hanno portato via tutto. E siamo al 10 maggio. Laura Gersi deve aspettare fino all'11 giugno, un mese, prima di riabbracciare suo marito, che viene scarcerato senza essere mai stato interrogato una sola volta, senza che gli venga data una qualsiasi spiegazione dell'orrore che ha dovuto vivere. L'hanno portato via per potergli rubare tutto in casa. Ma la notizia più terribile deve ancora arrivare ed è qualcosa di insopportabile. Il giorno 11 giugno fui liberato e appresi dell'uccisione della mia bambina Pinuccia. Signor procuratore, mia figlia è stata assassinata. Mi hanno detto che l'autore materiale è stato Gatti Giuseppe, detto Pino di Bergeggi. Sono arrivato alla determinazione di sottoporre alla signoria vostra i fatti affinché sia fatta luce su questa faccenda e vengano puniti i responsabili del delitto commesso in persona della mia bambina. Questi sono gli estratti del documento che Giuseppe Gersi ha scritto nella disperazione più assoluta, stremato da 4 anni di tentativi, tutti andati a vuoto, tentativi per trovare i colpevoli del terribile omicidio di sua figlia. È una speranza che resterà solo una speranza. Ma torniamo indietro, torniamo al momento terribile nel quale i genitori vengono separati dalla loro bambina. Pinuccia è in mano ai suoi aguzzini, viene rasata a zero, poi viene imbrattata di vernice rossa e poi le segnano il volto con scritte offensive e poi viene picchiata, seviziata, ripetutamente violentata dai suoi aguzzini che non hanno pietà per lei, di una bambina fragile e indifesa. La torturano, le rompono alcune dita di una mano, le sferrano un terribile pugno a un occhio che le procura un gigantesco ematoma. Non si stancano di infierire su di lei, vanno avanti 2 interminabili giorni. E questo è un lungo calvario di sofferenze che Giuseppina Gersi subisce per tutto quel tempo. Poi il 30 aprile del 45 viene finita, viene uccisa con un colpo di pistola alla nuca. Evidentemente qualcuno era stanco di soddisfare i suoi istinti su di lei. Il suo corpo martoriato viene gettato come un fantoccio davanti alle mura del cimitero di Zenola, assieme a tutti gli altri cadaveri delle vittime di quei giorni terribili, pieni di odio e di follia. Il falco e il gabbiano. La tragica vicenda della piccola Giuseppina Gersi, Pinuccia, vittima a 13 anni della follia di un gruppo di uomini che si autodefinivano partigiani, uomini che si sono arrogati il diritto di dare la vita e la morte a loro piacimento. Questa vicenda che si consuma tra il 25 e il 30 aprile del 45 avrebbe potuto concludersi lì, lungo il muro di cinta del cimitero di Zenola, dove i partigiani hanno gettato i cadaveri dei morti ammazzati in quei giorni terribili che hanno seguito l'uccisione di Mussolini, alla caduta del fascismo. E in quel fosso vengono gettati tantissimi cadaveri, cadaveri che non si contano più, cadaveri tutti senza nome, e molti rimarranno senza nome per sempre. Però capita che qualcuno vada a cercare un proprio caro, un amico, qualcuno che è sparito, del quale non si sa più niente, e magari non lo trova, però rimane colpito dall'orrore. Questo è quello che è capitato a un ragazzo, a un bambino, Stelvio Murialdo. Il padre con un amico va a cercare il figlio di una famiglia di suoi conoscenti che è sparito da giorni, non se ne sa più niente, non hanno molte speranze di trovarlo, tantomeno di trovarlo vivo, perché era uno nella milizia fascista. Quindi immaginate, condannato a morte senza neanche porsi qualche domanda, ma ci provano lo stesso. Stelvio dovrebbe rimanere a casa, il padre non vuole che lui veda certi spettacoli raccapriccianti, ma sappiamo come sono i bambini, è curioso e lui segue il padre. Quando arriviamo al cimitero, il padre mi obbliga perentoriamente a sedermi sul muretto ancora oggi esistente del fiume. Io piano mi sono alzato, sono andato lì, mi sono fermato ai primi cadaveri, c'era una lunga fila ed era questa ragazza sconosciuta allora, perché io poi per 7-8 anni non ne ho saputo né il nome, niente. È stato proprio un caso fortuito che poi ho avuto modo di incontrare i suoi genitori, Da lì ho avuto anche una foto. E questa è la storia. Mi rimane, mi dirai, dopo 60 anni sono, questi sono, sono ricordi forti. Sono ricordi che ti lasciano un timbro indelebile, perché c'erano, mi dirai, altri morti lì. Non so perché, forse perché era molto giovane e mi aveva colpito questo fatto. Stelvio Murialdo non riesce a dire molto di più di quello che avete sentito, anche se sono passati così tanti anni. Lui era un bambino nel momento del ritrovamento, diciamo, di quello che ha visto. Al momento dell'intervista invece è un signore di una certa età e il ricordo è forte, è doloroso, però ha scritto tutto e le sue memorie rappresentano un raro e prezioso documento di quell'orrore che oggi noi dobbiamo leggere per non dimenticare. Proprio il primo era un cadavere di donna, molto giovane. Erano terribili le condizioni in cui l'avevano ridotta. Evidentemente avevano infierito in maniera brutale su di lei, ma senza riuscire a cancellare la sua giovane età. Una mano pietosa aveva steso su di lei una sudicia coperta grigia che la ricopriva parzialmente dal collo alle ginocchia. La guerra ci aveva costretto a vedere tanti cadaveri e in verità la morte concede ai deceduti una distesa serenità. Ma lei, quella sconosciuta ragazza, no. L'orrore era rimasto impresso sul suo volto, una maschera di sangue, con un occhio bluastro, tumefatto, e l'altro spalancato sull'inferno. Ricordo che non riuscivo, come paralizzato, a staccarmi da quella povera disarticolata marionetta, con un braccio irrigidito verso l'alto, come a proteggere la fronte. La visione del cadavere della povera Giuseppina Gersi è terribile, getta chi la vede nella prostrazione. È inconcepibile che tutto questo sia potuto capitare a una bambina. Stelvio Murialdo non potrà mai dimenticarsela e alcuni anni dopo fonderà l'associazione di cui abbiamo parlato prima, Ragazzi del Manfrei. L'esposto del padre di Pinuccia non trova nessun tipo di accoglimento, la famiglia viene risarcita per il furto subito in casa e nel magazzino con 150.000 lire. I Gersi però devono scappare da Savona perché non riescono a reggere il peso delle persecuzioni che continuano a subire, perché sono accusati di essere dei simpatizzanti fascisti. È un po' come i profughi istriani, loro scappano come ladri dalla propria casa, senza mezzi, senza lavoro, vivendo per anni in estrema povertà, sapendo che gli assassini della loro bambina vivono invece, e probabilmente anche grazie ai proventi dei furti fatti, vivono impuniti. Passano i decenni, i familiari delle vittime di quei giorni terribili, così come i testimoni oculari, sono tacciati di essere dei nostalgici del ventennio, e si fa presto in questi anni a dare l'etichetta del fascista a uno per cui tutti hanno paura di parlare. Nel 2005 sembra aprirsi uno spiraglio a livello nazionale, per la prima volta si ricordano, non so, i martiri delle foibe. Tenete conto per esempio che io in anni di medie e di liceo da ragazzo non sapevo neanche cosa fossero le foibe. Timidamente qualcuno a Savona chiede di poter riaprire il caso Gersi, di poter parlare di Pinuccia. Naturalmente non si arriva a nulla, e fino all'11 febbraio del 2010, quando la stampa di Savona dedica un piccolo ritaglio alla notizia dell'interpellanza di un consigliere comunale che propone sia intitolato uno spazio pubblico o istituito un giorno del ricordo in memoria di Giuseppina Gersi. Il comune di Savona respinge la richiesta. È recente la notizia che il comune di Noli sta cercando di intitolare una targa in ricordo di Giuseppina Gersi, e naturalmente altre polemiche stanno seguendo e seguiranno. E intanto l'Associazione Ragazzi del Manfrei chiede all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di collaborare per cercare di far luce sulle atrocità tremende che sono accadute da una parte e dall'altra in quegli anni. Però fino a questo punto l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia non ha risposto all'Associazione Ragazzi del Manfrei. Lo faranno sicuramente. Questi sono i fatti. Sono passati 70 anni da questa barbara uccisione. La morte di Giuseppina Gersi rimane impunita, e tra l'altro questi crimini sono stati amnistiati dalla Repubblica Italiana. Avete capito bene, sono stati amnistiati, non conta il colore politico di questa azione, è l'unica tinta che rimane a collocare questa vicenda è il rosso del sangue dei martiri di tutti i tempi, di tutti i colori, che hanno subito gravi e mortali ingiustizie senza che nessuno pagasse. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, questa volta permetteteci di dire che il colpo d'ala l'abbiamo dato noi, che abbiamo avuto il coraggio di parlare di una vicenda che sembra scottare da tutte le parti. Nessuno vuole nominare Giuseppina Guersi, ma noi non siamo nessuno. Se qualcuno vuole consigliarci delle altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it, oppure scrivete al nostro sito, venite a cercarmi, a cercarci sui miei, sui nostri social. Poi vi racconterò cos'è successo a seguito di questa puntata. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.